Pino. Io sono d'accordo con, non so come si chiama, con Paolo. Mauro. Talmente d'accordo che l'abbiamo scritto in tutte le salse. Quello che chiamiamo movimento di contadinità planetaria è un movimento che nasce nelle città, pervade le campagne, un percorso nomade, e ritorna nelle città come sta ritornando. Questo è uno degli effetti in questa città. I motivi per i quali non è partito dalle campagne sono molteplici. Qualcuno lo ricordava di nuovo Daniele. Il movimento operaio non ha avuto alcun interesse per le campagne. I movimenti progressivi, il Sol dell'Avvenire, dal 1800 è stato pensato come un movimento urbano, non come un movimento rurale. La ruralità è stata pensata esclusivamente come elemento residuale, ma non la ruralità soltanto da un punto di vista antropologico, anche da un punto di vista tecnico, anche da un punto di vista paesaggistico, anche da un punto di vista estetico, anche da un punto di vista naturalistico. Era semplicemente un residuo di un progressivo sviluppo che tendeva ad eliminare quell'aspetto antropologico, estetico, naturalistico e così via. Così è stato pensato lo sviluppo industriale a livello mondiale. Quindi è evidente che una parte enorme di produttori sono stati abbandonati, e giustamente ancora Daniele ricordava come sono stati abbandonati alla destra, rancorosa, alla destra razionale, alla Vandea. Cioè, dalla campagna è nata la Vandea, le rivoluzioni sono nella città, non certamente nella campagna. Quindi c'è questo effetto di lunga durata, questa lunga cannonata della storia del movimento operaio a livello planetario. In più, particolarmente in Italia, ci sono i rapporti agrari del secondo dopoguerra, che hanno lasciato a braccianti agricoli la possibilità di trasformarsi in agricoltori. Braccianti agricoli che non avevano conoscenza dell'agricoltura, non avevano capitali, non avevano sufficienti modalità di trasformare. Infatti sono stati profondamente trasformati, non hanno apposto nessuna resistenza alla chimica in agricoltura, non hanno posto alcuna resistenza all'industrializzazione dell'agricoltura e non avrebbero posto alcuna resistenza anche alla bioingegneria, all'ingegneria genetica in agricoltura. Non l'avrebbero posta neanche, perché a quel tipo di contadinità il problema è: vivo nella terra minuscola, in una zolla di terra, in questa zolla di terra vado esclusivamente a ciò che vedo, la mia vista coincide con la mia miopia fondamentalmente, al di là non ci vado. Coltivo i miei piccoli interessi, punto. Non è un caso che questo movimento ha avuto al centro, ancora un altro caso, della vitivinicoltura. Non è un caso. Ma lì, insomma, c'è stato un signore che si è chiamato Veronelli, c'è stato un movimento a livello internazionale, c'è stata la Confederazione Paysanne, cioè ci sono state tutta una serie di elementi che sono insorti, sono emersi in un campo, in un piccolo campo dell'agricoltura, però in Italia importantissimo, come questo, nel quale non è un movimento residuale. Sono ormai migliaia di produttori vitivinicoli che hanno introdotto delle profonde trasformazioni. Perché? Perché quel settore vitivinicolo si è salvato solo grazie alla piccola realtà, alla piccola e media realtà contadina, non certo alla grande industria che l'avrebbe seppellito. Quindi naturalmente questo è un modello che si va rafforzando. Certo, non è pervasivo, non può esserlo, ma la contadinità classica è effettivamente residuale, scomparirà, non ha più alcuna possibilità di sopravvivenza. L'unica possibilità di crescita, e sta avvenendo, non è vero che in tutto il mondo è così, sono delle aree, per esempio in Italia, la Toscana registra da 7-8 anni un movimento di riruralizzazione, cioè la popolazione che vive nelle aree rurali sta lentamente aumentando. Avviene in Toscana per processi che hanno poco a che fare con l'agricoltura, in verità, hanno più a che fare con processi di residenza che hanno più riferimento al mondo romano, diciamo, cioè alla riscoperta della seconda residenza in campagna. Ma in ogni caso, diciamo, è un effetto non certamente omogeneo, ma che però rileva un effetto che è questo, è dalla città che nascono le grandi trasformazioni, si riverberano nella campagna e tendono, speriamo, a ritrasformare le città, perché senza di quello anche questo movimento non ha futuro.